A distanza di anni la psicologa Fordumi ha incontrato casi gravi, per noi, persone normali. Tanto normali che hanno rivoltare nella tomba Hannibal Lecter. Hannibal Lecter era per noi un caso, per noi, normale. A distanza di anni un caso veramente impensabile, ma per noi, normale, fu la donna, bimba, abominio detta Brunna. Qui la scienza fisico, quantistica agricolturiera della psicologa Fordumi è venuta incontro a questa donna sana di mente. Capisci? Trauma? Per un povero ragazzo anche, per lei normalità. Psicologhi Fordumi 398.429.384 capitolo sofferenza più importante, decisiva, mortuaria, capisci? Ops, doppia bis e 69/bis.